America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Detroit. Mario Platero, sono a Sterling Heights, uno degli impianti di produzione, uno dei più avanzati impianti di produzione della Chrysler, dove si produce, si assembla la 200, la nuova Chrysler 200, con un impianto di verniciatura che devo dire è tra i più avanzati del mondo. È che io non avevo visto prima di adesso una cosa così incredibile, con robot. Ci sono questi robot rossi che si muovono con rapidità incredibile, con una precisione straordinaria, e non si vede neanche un dipendente. Beh, benvenuti nel manifatturiero del futuro, nel manifatturiero che ci descrive il presidente Barack Obama, un manifatturiero che poi genera lavoro, perché se ci sono meno persone nella catena di assemblaggio, ce ne sono di più da altre parti, perché ci sarà qualche fabbrica, qualche azienda che deve costruire questi robot ad altissimo valore aggiunto, che poi servono per costruire le vetture. Ecco, questo insieme, questo sguardo d'insieme, devo dire, produce, come dire, una dicotomia con quella che è stata la reazione estrema, secondo me, ieri del mercato, dopo l'annuncio da parte di Sergio Marchionne del suo piano quinquennale. C'è un gap di comunicazione chiaro, perché in sostanza Marchionne dice molto sta nella difficoltà a percepire la vera portata di una rivoluzione che si è avviata con questo nuovo piano presentato martedì. Cioè, Marchionne dice chiaramente che la sua visione, il senso di coesione che c'è fra lui, il management e la forza al lavoro, l'innovazione, la chiarezza che è stata fatta nell'impostazione di una divisione di brand, una focalizzazione su ciascun prodotto, è stata fatta in modo originale, in modo nuovo, in modo anticonformista. E spesso gli analisti non reagiscono bene all'anticonformismo. E la cosa che mi ha colpito di Marchionne è stato quando a un certo momento ha addirittura attaccato certe forme di capitalismo. Dice: il capitalismo dei tabulati, delle statistiche, dei numeri, il capitalismo che così si presenta sempre per fare una verifica dopo pochi mesi, non ha funzionato, non funziona, non consente di creare quel valore aggiunto di medio lungo termine. E però il mercato è implacabile, e dunque ieri ha punito il titolo Fiat. E devo dire che tra la visita in questo impianto ieri mattina e tra le prove di alcuni dei modelli nuovi, perché ci hanno portato a Evaluation Road, che è subito dietro i quartieri generali di Auburn Hills, devo dire, ho provato una decina di modelli, 7, 8, 9 modelli, tutti i modelli nuovi. Anche questi, devo dire, mi hanno colpito parecchio. Quali sono questi modelli? Ve lo dico: la Chrysler 200, appunto, il Ram, questo colosso, la Dodge Challenger super aggressiva, 2500, una elettrica al 100%, devo dire, per me è stata una scoperta, perché non solo era silenziosissima, aveva un'ottima ripresa. L'altra, la Abarth, che insomma un Abarth è sempre un Abarth, il Gran Cherokee, la Maserati 4 porte, l'Alfa 4C, la Ferrari FF, insomma è un parco auto che sembra essere di straordinaria concorrenza. Ecco, ma questa è la mia impressione. Allora, alcuni analisti hanno cercato di dire: ma i problemi ci sono, perché i problemi sono che gli investimenti sono troppi, non si sa dove recupereranno i soldi, e così via, così via. Ma io ho con me ai microfoni di America 24 Flavio Pompetti, corrispondente del Messaggero, grande esperto di auto, che è venuto anche lui qui a Detroit per dare un'occhiata. Flavio, buongiorno. Allora, eri anche tu all'impianto di Sterling Heights, ti ha colpito? Mi ha colpito, è senz'altro uno degli impianti che, pur non essendo un green plant e di estrema efficienza e di alto livello di produttività, però mi ha colpito anche molto la presentazione di Marchionne il giorno prima. Ma io capisco la posizione degli analisti, che si trovano invece a giudicare su dei dati che sono di oggi e non di domani. Marchionne ha presentato un sogno, gli analisti hanno visto che la Chrysler ha fallito gli obiettivi della trimestrale appena passata, che ha un fagotto di debito ingente e sospettano che questo tipo di piano che ha presentato lo costringerà, per applicarlo, ad attivare nuovo debito. Ecco, ci sono state molte congetture, vendite, lui ha negato che ci saranno delle vendite, aumenti di capitale, ha detto non ora, quando il titolo sarà più caro, perché adesso il titolo è sottovalutato. Ecco, è stato un po' come una frustata del mercato. Dice, ma è sottovalutato, eccolo un titolo sottovalutato, zacchete, e ha perso l'8%, il 9%. Ecco, è una punizione eccessiva secondo te? Dipende tutto da quanto si crede al sogno. Il suo sogno è credibile, però le sue aziende si trovano in questo momento in una situazione veramente difficile. Sono aziende che devono correre. Lui è arrivato, ha preso in mano una Chrysler che era completamente vuota di prodotto. La prima cosa che ha dovuto fare, partendo da un debito che era già consistente, è stato investire per riuscire a mettere in piedi dei nuovi modelli da avviare verso il mercato. E così è lo stesso problema che ha avuto con le fabbriche. Ecco, però scusa, anche proprio su questo, questa fabbrica nel 2010 era l'età della pietra, insomma, diciamolo, ed è stata portata all'avanguardia. Anche allora, anche nel 2010, c'era chi diceva, ma dove li trova questo i 2 miliardi di dollari per fare l'investimento? Certo. E allora, come lo colmiamo questo gap tra sogno, percezione, realtà, eccessivo realismo forse degli analisti? Con le risultati, con le vendite. E la Chrysler sta dando dei risultati favolosi, è la società americana che cresce al passo più veloce, però allo stesso tempo deve ammortizzare i costi del debito che ha sulle spalle, e l'ammortamento del credito gli sta costando molto, e allo stesso tempo deve investire. Marchion è un giocatore d'azzardo, io sono convinto che tutto sommato gli piaccia stare in questa situazione. Ha gettato un guanto di sfida agli analisti 2 giorni fa, toccherà a lui dimostrare che vincerà la partita. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, mi sono trovato per strada a collaudare questi modelli. È la strada, è il vero grande sogno dietro le ambizioni dei costruttori americani, e il sogno americano cristallizzato da un grandissimo artista. On the Road Again di Willie Nelson. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Da Detroit è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.